piano. Di Enrico Ruggeri. Non vi ho raccontato che la metà di quello che ho veduto, e questo perché sapevo che non sarei stato creduto. Marco Polo scrive così nel Milione, il suo famoso resoconto di viaggi in Asia, una vera e propria enciclopedia geografica, storica, politica, scientifica, che riunisce tutte le conoscenze disponibili alla fine del XIII secolo sul continente asiatico. Succede, anche a me è capitato, questa non la racconto perché non mi crederebbe nessuno. Questa sua autolimitazione non ha sminuito il suo lavoro, è un lavoro che ha contribuito alla creazione dei primi mappamondi e che ha ispirato i viaggi di Cristoforo Colombo. Non ho citato Marco Polo a caso. Marco Polo non è stato un esploratore nel senso tecnico della parola, non andava alla ricerca di terre nuove, di popoli da conquistare, di ricchezze da portare in patria. È stato un viaggiatore, un curioso, uno aperto a tutto quello che c'era da apprendere sulla bellezza, sulle novità, sulla cultura. Lui era uno che ha amato le terre che ha incontrato, aveva un grande rispetto per i paesi che attraversava, era veramente un viaggiatore illuminato e consideriamo che un uomo che era vissuto nella metà del 200, è tornato, è vero, anche meritatamente arricchito, ma in realtà soprattutto si è arricchito di conoscenza e di umanità. Bene, il nostro protagonista di oggi probabilmente si è ispirato proprio a Marco Polo. Il protagonista è un commerciante di arredi sacri, di candele, che aveva la passione per i viaggi e per la scrittura. Sul finire dell'Ottocento lui ha percorso le strade, strada è una parola grossa, insomma le incerte strade di un'Italia che era stata appena unita, a bordo della sua bicicletta, e lo ha fatto prendendo appunti, non solo disegnando le cartine dei luoghi che attraversava, ma tracciando un ritratto appassionante dell'Italia di quegli anni. Ne ha messo in evidenza le straordinarie bellezze. Bene, il nostro protagonista di oggi è Luigi Vittorio Bertarelli, un ciclista, uno speleologo, uno scrittore, il fondatore del Touring Club Ciclistico Italiano, che poi è diventato il mitico Touring Club Italiano. E lo ha fatto proprio per accogliere in un immenso abbraccio virtuale non solo quelli che si spostavano in bicicletta, ma tutti i turisti amanti del viaggio e dell'avventura. Scrivo per voi ciclisti, che del turismo serio, che dà nerbo al pensiero, perlomeno quanto ai muscoli, avete fatta un'abitudine e ritroverete perciò nel mio un riflesso del vostro pensiero. Scrivo per voi neofiti del viaggio, che una vigorosa spinta aiuterà a prendere la buona via. Scrivo un pochino anche per voi, alpinisti puro sangue, che l'entusiasmo per il vostro nobile sport ha cristallizzato nell'ammirazione dell'alta montagna. Io pure sono alpinista e sento la poesia del ghiaccio, della tormenta, delle aspre rocce vinte a fatica. Ma chiedo un maggiore eclettismo che porti ad una più profonda conoscenza dei fatti. Avete sentito? Luigi Vittorio Bertarelli scrive per tutti, non solo per i ciclisti, ma anche per chi si mette in viaggio con altri mezzi, a piedi, in carrozza, con il treno. Lo fa per la passione di uno sport, ma anche per visitare i luoghi straordinari di questa nuova Italia che era appena nata, che era da unire non solo politicamente ma anche mentalmente, e lo fa con una consapevolezza che ancora non si conosceva in quegli anni. Bisogna pensare che il modo di viaggiare di fine Ottocento era molto diverso ovviamente da quello di oggi, non solo per i mezzi, ovviamente niente aerei, niente treni super veloci, ma era proprio l'attitudine del viaggiatore. Non c'era il turismo di massa, pochi eletti potevano spostarsi, e chi lo faceva per motivi ben precisi di lavoro, motivi familiari. A viaggiare per passione sono solo pochi aristocratici, che sono molto colti, che sono ricchi, che non hanno problemi a spostarsi. Bene, Luigi Vittorio Bertarelli è una delle prime menti illuminate che capisce quanto sia importante creare i presupposti di un turismo su vasta scala, educando il viaggiatore comune, rendendolo culturalmente consapevole e soprattutto civilmente responsabile. Però Bertarelli ha una visione imprenditoriale, diciamo un prototurista borghese, ha una mentalità molto democratica. coglie questa occasione straordinaria, un'occasione storica, economica, in un paese come l'Italia, che era ancora molto arretrato, e però era ovviamente già tra i più interessanti, i più attraenti del mondo. E lui coglie le potenzialità di sviluppo turistico del nostro paese. E capisce subito che la nostra penisola può essere valorizzata non solo agli occhi degli stranieri, ma anche a livello, oggi si direbbe, nazional popolare. Il problema è spingere gli italiani a viaggiare, e a viaggiare con la testa, perché lui dice molti viaggiano con un cervello non maggiore dei loro eleganti bauli, con la stessa intelligenza dei pedali che spingono. Passano accanto a una quantità di cose bellissime senza saperlo, e questo, come dire, è un tema interessante. Ancora oggi è così, e lui prende una decisione che porterà avanti per tutta la vita. Vuole fornire strumenti pratici che aiutino il turista nel corso del suo viaggio, soprattutto un canocchiale per la mente che porti la sua visione oltre i suoi orizzonti. Bertarelli nasce a Milano il 21 giugno 1859 da Pier Giuseppe Bertarelli, Carolina Nessi. Ha un fratello più grande, Giulio, un fratellino più piccolo, Achille. Il padre milanese puro sangue, ha una piccola fabbrica di candele, di ceri, insomma incarna in pieno lo spirito imprenditoriale ottocentesco. Il padre muore presto, nel 69, lui già 10 anni, 2 figli maggiori sono un po' più grandi e prendono le redini dell'azienda familiare e riescono a portarla avanti malgrado la giovane età. Nel 1884 però la fabbrica viene completamente distrutta da un incendio. Bene, i fratelli non si perdono d'animo, la ricostruiscono, allargano la produzione di Allegri Sacri e diventano tra i maggiori produttori d'Italia. Insomma, già questo fatto la dice lunga sul carattere dei fratelli Bertarelli. Loro sono molto giovani, si ritrovano subito l'azienda sulle spalle, e oggi a quell'età i loro coetanei stanno buttando via le giornate spesso, o comunque stanno studiando, vivendo in famiglia. Loro cominciano a lavorare in fabbrica, lavorano in una fabbrica di candele, quindi un lavoro anche non semplicissimo, non confortevole, e loro ci lavorano anche come operai pur essendo nei proprietari. Poi c'è un altro episodio che risale a un periodo precedente, un episodio che ci fa capire il tipo di educazione che la madre impartisce ai figli. Lei è rimasta vedova con 3 bambini, con una piccola azienda che costituisce tutto suo patrimonio. Nell'estate del 1872 Luigi riceve dalla madre una proposta che oggi, con i tempi che corrono, farebbe inorridire qualunque madre. Avevo poco più di 13 anni quando la mamma un giorno mi prese a parte e mi domandò: ti sentiresti di fare l'ometto e di condurre l'Achillino a Genova ai bagni di mare? L'Achillino è mio fratello di 4 anni minore di me. Naturalmente io risposi forte come una torre, come era nel mio carattere. Ma certo che lo saprei condurre. Veramente non sapevo bene cosa volesse dire condurre ai bagni di mare, ma ero fresco di lettura del libro Robinson Crusoe. E se quello se l'era cavata su un'isola deserta, che difficoltà avrei potuto incontrare io a Genova? Quando penso adesso che la mamma ha usato fare di me a 13 anni il piccolo papà di un ragazzetto di 9, resto perplesso per il suo coraggio. Insomma, avete capito bene, Luigi di 13 anni e Achille di 9 vengono messi su un treno che li porta a Genova. Loro sono assolutamente da soli, non hanno un albergo prenotato, non hanno nulla, uno stabilimento balneare a cui fare riferimento, 2 bambini da soli. Il racconto di questo suo primo viaggio, questo vero e proprio imprinting, Bertarelli questo racconto lo scriverà anni dopo. È un racconto divertente, ma è spaventoso, perché noi da genitori, ma anche da ex bambini, ci immaginiamo quello che sarebbe potuto accadere a 2 bambini in una situazione del genere. Devono cercarsi una camera, devono mangiare, devono occuparsi di tutte quelle cose che di solito fanno le madri. Ci sono ormai ragazzi che ben più grandi non oserebbero fare questa cosa, e i due stanno 3 settimane in vacanza, se la cavano perfettamente, tornano a casa sani e salvi, rafforzati, cresciuti grazie a quella prima esperienza di autonomia totale, di quel pizzico di avventura che poi ci fa capire cosa diventerà il Bertarelli adulto. Luigi è uno sportivo appassionato, da ragazzo vince gare importanti, podistiche, si fa conoscere per le sue imprese alpinistiche, poi trova però nella bicicletta la sua passione, il suo mezzo di trasporto prediletto, anche perché in quegli anni la bicicletta stava diventando il mezzo più diffuso, era stata perfezionata, resa più sicura, era un mezzo sia per gli spostamenti cittadini che a livello sportivo. Cominciano a esistere diverse associazioni ciclistiche, l'attività a livello agonistico viene promossa, di lì a poco arriverà anche il Giro d'Italia. Bertarelli ha in mente qualcosa di diverso, lui vuole promuovere la bicicletta come mezzo esplorativo, turistico, per fare conoscere la nuova Italia a tutti, ha uno spirito patriottico risorgimentale che vuole integrare tutta l'Italia, soprattutto il meridione, che risulta ancora lontano, staccato dal resto del paese, lo rimarrà ancora a lungo. Insomma, è tempo, secondo lui, che gli italiani conoscano la loro terra, e il mezzo migliore, naturalmente, per quei tempi è la bicicletta. Ah, ciclisti, che privilegi ci procura il nostro mezzo. Nulla di tutto ciò si potrebbe vedere in ferrovia. Quanto ad andarsene sopra un mulo, è assai lento e scomodo. La bicicletta scorre silenziosa e docile, rapida o lenta a nostro gusto. L'abitudine rende le salite abbastanza poco faticose. L'energia, del resto, sopperisce presto alle deficienze fisiche che apprezza soltanto chi si è provato a dire un po' di volte «voglio riuscire». Allora ciò che sembrava difficile diventa fattibile, senza sforzi troppo grandi. Poi, con l'abitudine, le difficoltà si fanno moneta corrente, delle gite, e non ci si bada più. Perché è questo, per me, uno dei caratteri più belli della bicicletta. È una scuola per formare il carattere, per insegnarci gradatamente a badare a noi stessi, a dominare la situazione, a trarci d'impaccio nelle difficoltà. Siamo nell'epoca della piccola belle époque italiana, siamo dominati da cavalli e da carrozze in quegli anni. Bene, Bertarelli e alcuni suoi amici appassionati sportivi decidono di andare alla scoperta dell'Italia con le loro nuove biciclette, all'avanguardia per l'epoca. Però, insomma, se vengono paragonate a quelle di oggi, naturalmente fanno sorridere. E per dare un supporto a questo binomio ciclismo-turismo nasce l'idea di un'associazione. Un'associazione che si prenda cura dei viaggiatori, che li informi attraverso una serie di strumenti, guide, riviste, cartine, li informi di tutto quello che potranno trovare andando in giro. Così la sera dell'8 novembre 1894, nel salone a pian terreno dell'Albergo degli Angeli, siamo a due passi dal Duomo di Milano, si riuniscono 58 persone, di una certa levatura naturalmente, nobili, industriali, professionisti, commercianti. Questi 58 costituiscono il nucleo originario del Touring Club Ciclistico Italiano. L'assemblea elegge come presidente una personalità di spicco del mondo sportivo milanese, si chiamava Federico Johnson, e Luigi Vittorio Bertarelli viene nominato responsabile del settore strade. E parte proprio da qui, da questo ruolo, quello della definizione di una viabilità nazionale, parte da qui la leadership di Bertarelli all'interno del Touring. Lui diventerà poi negli anni direttore generale, poi fino alla sua morte presidente. Quando lui fonda il Touring Club Ciclistico Italiano, Luigi Vittorio Bertarelli ha 35 anni, ha una posizione economica agiata, che è dovuta al lavoro, alla lungimiranza, alla dedizione della sua famiglia. Insomma, però può occuparsi con passione dell'associazione, può farla progredire. Pensate che nel 1894 il club conta 784 soci, dopo 5 anni i soci sono 16.000, nel decennale sono 50.000, quando muore Bertarelli nel 26 sono 360.000. La sua attività all'interno dell'associazione è grandiosa, cambia radicalmente il modo di viaggiare e lo trasforma in quello che si conosce oggi. Insomma, allora non esistevano le cartine stradali, e quelle attuali nascono proprio dall'attività di Bertarelli e di pochi altri. Insomma, capite quale lascito abbia consegnato ai posteri quest'uomo, un viaggiatore ma anche un grande scrittore, un narratore delle sue molte e affascinanti avventure. Lui diventa un esperto di geografia, di toponomastica, di cartografia, di geologia, di speleologia, di botanica, diffonde la cultura della piccola geografia e al merito di avere dato un valore scientifico alla cartografia. Tra le altre cose, lui definisce l'Italia clivometrica, cioè non solo disegna le cartine stradali, ma evidenzia le pendenze e le traduce in profili che sono di importanza vitale per i ciclisti, e questo lui lo fa per 30.000 chilometri di strade. Realizza una carta d'Italia in scala 1 a 250.000, 59 fogli, e lui è ideatore di questa cartina ed è un coordinatore infaticabile. Immaginate la difficoltà di fare una cartina delle strade italiane dal nulla. Vuol dire salire in sella e percorrere in lungo e in largo tutta la penisola, e prendendo appunti e disegnandola come una carta stradale. Un lavoro immenso che lui documenta anche con una serie di scritti, di articoli che lui pubblica sulla rivista mensile del Touring, un'attività giornalistica enorme, frenetica. Dal 1895 al 25 lui scrive 335 articoli di varia natura e lunghezza, alcuni divertenti, altri carichi di umanità, di sofferenza, tutti indistintamente profondamente poetici. Scrivo tra le colonne del Tempio di Nettuno a Paestum. Sono appoggiato all'area che vide i sacrifici. Sul mio capo si librano gli architravi monolitici che sfidano da 24 secoli la falce del tempo. Questo è tutto quanto rimane di Posidonia, fondata dai Dorici. In questi campi acquitrinosi, ora immersi in una tragica desolazione, furono un tempo gli incanti, i fiori, le ricchezze descritte da Ovidio, Virgilio e Marziale. Il sole sta per nascondersi nelle acque. Tutto è porpora e fuoco. Fantasmagoria è questo tramonto, come tutto quello che, nella mia corsa, dagli occhi ammiratori è penetrato alla mente riflessiva. A voi giovani, che avete occhi e mente, forza e tempo. A voi, che mi avete compreso, dico: avanti, la via è aperta. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Luigi Vittorio Bertarelli, un commerciante di arredi sacri che ha la passione dei viaggi e della scrittura. E lui, sul finire dell'Ottocento, percorre le strade incerte di un'Italia che era stata appena unita, e le percorre a bordo della sua bicicletta, davanti alla gente che lo osserva attonita, perché non esiste ancora il turismo, e figuratevi il cicloturismo. Però lui è veramente anni luce avanti, non è un turista ignaro che passa accanto alle cose belle senza vederle, è un viaggiatore consapevole e informato. Ed è un viaggiatore che vuole coinvolgere tutto un paese, perché i resoconti dei suoi viaggi tracciano un ritratto appassionante di quell'Italia, di quell'Italia di quegli anni, mettendolo in evidenza le bellezze straordinarie. E lui diventa un Google Map vivente, perché dalla sua passione nasce nel 1894 il Touring Club Ciclistico Italiano, del quale lui è cofondatore con altre 57 persone, poi diventerà il Touring Club. Ed è un'associazione che ha lo scopo di accogliere non solo quelli che si spostano in bicicletta, ma tutti i turisti che amano il viaggio e l'avventura, però li fornisce dei mezzi per fare i turisti, quindi è una serie di informazioni, riviste, cartine stradali, articoli che parlano delle bellezze del paese, itinerari di interesse storico, e tutto fatto con dei viaggi che lui compie in sella la sua bicicletta, per creare carte stradali che ancora non esistevano o che erano approssimative, ma anche documentato il tutto da una serie di bellissimi articoli scritti con grande capacità di racconto, con stile, e questi racconti offrono al lettore informazioni utili sui luoghi visitati, e poi ovviamente diventano anche uno spaccato interessantissimo dell'Italia di quegli anni, uno spaccato anche tragico a volte, come nel caso del viaggio in Sicilia. Lui arriva nel 1898, va a visitare le solfare di San Cataldo a Caltanissetta, solfare che lui definisce l'inferno. Mi faccio accompagnare da due guide a un pozzo. Il lavoro è continuo, di giorno e di notte. Sullo spiazzo all'uscita della miniera ci sono dei mucchi dove ciascun portatore scarica il proprio sacco di zolfo. I ragazzi escono dalle miniere come formiche dal buco. Arrivano alla luce con gli occhi chiusi dal bagliore, i visi stravolti di chi sta per annegare. Rovesciano il carico e si siedono sullo stesso minerale che avevano appena portato su. Per un attimo ritornano ragazzi spensierati. Sono a brandelli, le gambe nude, avanzi di camice e di calzoni legati con delle cordicelle. Sono tutti magri, pieni di cicatrici, gli occhi gialli senza espressione, le palpebre velate di rosso, tutte cispose. Questa è una Sicilia nascosta infernale, dove uomini e fanciulli, ridotti senza coscienza, penano ogni giorno e ogni notte in un lavoro disumano. In queste miniere tutto manca: la sicurezza, l'aria, la paga sufficiente. Una sola cosa è magistralmente organizzata: lo sfruttamento dell'uomo. E avete sentito con quanta empatia lui riesca a raccontare dei fatti così tragici, dimostrando anche una vicinanza molto forte con la sofferenza umana. Non giudica, non si considera superiore in quanto imprenditore del nord che arriva in quelle terre povere, anzi lui racconta una realtà, in fondo la denuncia anche. I suoi possono essere anche degli aiuti a chi arriverà negli stessi posti dopo di lui, raccontando un'Italia nuova, unita nel dolore, nella sofferenza, nella tutela degli oppressi. Ma raccontano anche altro. Lui per esempio si fa affascinare dalle cave meravigliose di marmo delle Alpi Apuane, ci va nel 1900. Il suo racconto è così vivo, interessante, il suo racconto di come i blocchi di marmo vengano tagliati per essere trasformati in lastre, che alla fine sembra proprio di leggere la descrizione di un esperto in materia. Lui conquista molte delle sue conoscenze sul campo. E tra i tanti interessi di Bertarelli c'è anche la speleologia, un amore che probabilmente era cresciuto proprio viaggiando tanto. Dalla sua esperienza era nato addirittura un libro scritto a quattro mani con un amico, Eugenio Boigen, che si chiama 2000 grotte, 40 anni di esplorazioni nella Venezia Giulia. Un libro che costituisce un punto di riferimento per la speleologia moderna, rimane ancora oggi un esempio mai superato di monografia speleologica regionale. A Bertarelli si deve anche la prima esplorazione della grotta Remeron, una grotta che si trova in una posizione panoramica sul versante meridionale del massiccio del Campo dei Fiori verso il lago di Varese. Siamo nel comune di Comerio, una grotta che ha uno sviluppo di 2300 metri all'interno della montagna, non era mai stata esplorata, era nota bene. Lui decide di capitanare una spedizione del Novecento che non esplora tutta la grotta, si ferma al primo lago sotterraneo, poi chiama in suo onore lago Bertarelli. Avrà però il merito di catalizzare l'attenzione della gente sulla grotta. Anni dopo la sua impresa è stata ripresa, oggi questa meraviglia del mondo sotterraneo è aperta al pubblico ed è visitabile. A mezza costa del monte, tre quarti d'ora sopra Comerio, tra Varese e Gavirate, all'altezza di 685 metri circa, si apre nel bel mezzo di un prato, con aspetto innocentissimo, una piccola buca larga 50 centimetri in un senso e un metro e mezzo nell'altro. È questa la cosiddetta buca del Remeron, che tutti i contadini dei dintorni conoscono e dove nessuno è penetrato di più di qualche metro, perché non è affare comodo. Le solite leggende di serpenti e di altri animali e fatti più o meno fantastici non hanno impedito a Don Luigi Tadini di Comerio, a Don Giacomo Pensotti di Barasso, al mio indivisibile compagno di escursioni Gigi Origoni e a me di fare separatamente delle ricognizioni preliminari, le quali ci persuasero che un tentativo serio avrebbe potuto essere molto interessante. Andammo perciò tutti insieme all'assalto dell'ignoto un mattino d'agosto. Portavamo con noi un materiale poderoso. Oltre le provvigioni da bocca, che in fondo sono la sorgente del coraggio, avevamo circa 200 metri di corde diverse, da quelle sottili, che nelle discese facili danno un affidamento morale, a uno scarso aiuto materiale, a quelle robuste, cui si può all'occorrenza abbandonare il corpo con la sicurezza che non si stacchi dall'anima. E poi bisogna dire che l'attività di Luigi Bertarelli dà anche un certo incremento allo sviluppo alberghiero del nostro paese, che in quell'epoca gli alberghi versavano in condizioni disastrose, esclusi naturalmente i grand hotel di lusso. Ma lui si sofferma sugli alberghetti, sulle locande che si trovavano disseminate sul territorio italiano, e lì la situazione era veramente tragica. I racconti di Bertarelli sono molto vivaci, sono coloriti, trasmettono al lettore giudizi anche impietosi, ma fanno sorridere, pungono sul vivo più di un gestore e portano nel tempo dei miglioramenti. Ascoltate questo resoconto da Lipari, scritto nel 1909. Per riassumere le mie impressioni di questa escursione all'arcipelago di Lipari mi pare inutile. È chiaro che ogni turista può attingere da questo luogo un profondo e giustificato godimento, ma non voglio chiudere questo articolo senza deplorare che tante bellezze siano così osticamente condite da una totale mancanza di comfort. La Commissione per il miglioramento degli alberghi del Touring qui nulla potrebbe fare. Quegli alberghi sono al di sotto di qualsiasi infima osteria del settentrione e così sporchi da apparire inabitabili. Il ristorante che passa per il migliore di Lipari è una bottega sudicia, dove si mangia male. In un angolo un povero vecchio infermo, credo il padrone, sepolto tra cuscini e coperte, agita tutto il giorno una bacchetta per scacciare le mosche. Vedere questa rovina d'uomo paralitico stringe il cuore e fa passare l'appetito. Forse da queste mie doglianze verrà fuori qualche protesta? Mi dispiace, ma è mio debito avvertire i turisti delle spine che ammanniscono in questi luoghi con le rose. Egregi albergatori arretratissimi, se a queste vostre rose, con un bel gesto, voi toglieste le spine che da soli vi mettete, vedreste come fiorirebbero. Il falco e il gabbiano. Insomma, l'associazione fondata da Luigi Vittorio Bertarelli, il Touring, si prende cura dei viaggiatori, li informa, li tutela, li avverte, ci sono riviste, annuari, carte geografiche, le famose guide Touring, e poi ci si cura ovviamente anche del comfort del turista. E pensate che è il Touring che fa installare i primi cartelli stradali moderni, siamo nel 1895, siamo a Ravenna per l'esattezza, e poi si comincia a informare i turisti degli alberghi migliori, dei campeggi, dei ristoranti, e sarà sempre il Touring a pubblicare la prima guida gastronomica d'Italia, insomma gli antenati di TripAdvisor, tutto quello che riguarda il turismo che noi oggi diamo per scontato. Una volta tutte queste cose non c'erano, sono stati proprio uomini come Bertarelli a ideare, a realizzare per primi questo patrimonio immenso di informazioni che esalteranno il nostro magnifico territorio italiano. E pensate che lui se ne va in giro da solo, molto tranquillamente, con la sua bicicletta, va in luoghi che non hanno mai visto un ciclista, chi lo incontra rimane sconvolto nel vederlo. Lui, lo sappiamo, però ha iniziato molto presto a cavarsela da solo, da quando a 13 anni era in giro per Genova col fratellino da portare al mare. Insomma, lui non fa testo. L'Italia è ancora molto poco organizzata dal punto di vista dell'offerta turistica. Bene, lui consiglia i suoi lettori, cioè i soci del Touring, e più in generale consiglia a chiunque intenda compiere un viaggio di vacanza, consiglia di non andare da solo ma di optare per un'allegra compagnia. Mettetevi in brigatelle di 4 o 5 e leggete un capo, questo è essenziale. Date la cassa a un altro, partite con delle cartine stradali e quasi nulla a bagaglio, ma tanta voglia di stare allegri anche se pioverà. Spedite qualche pacco postale di indumenti o provvigioni alimentari in scatola con molto anticipo in luoghi dove soggiornerete. Non si usa molto fare così ed è un errore. Il vostro bagaglio non deve pesare più di 3 o 4 kg. Lasciate i pesi ai muli, la posta è molto più comoda ed economica. Qualche colazioncina fuori bilancio così, sottobosco, presso una fonte, in barba all'odiato conto dell'albergo, mette la compagnia di buon umore. Vedete com'è pragmatico e affettuoso Bertarelli coi suoi lettori. È un padre che insegna ai figli come muoversi. Questi insegnamenti non vengono dati a caso, perché sono il frutto di una analisi attenta, di esperienza, di valutazione delle difficoltà, delle esigenze. E lui peraltro studia anche quello che fanno gli altri paesi, prende a modello il Cyclist Touring Club inglese, dialoga sempre con realtà estere analoghe alla sua, ha un'attenzione non solo per l'Italia ma anche per quello che c'è al di fuori dei confini nazionali. A un certo punto ha un'idea grandiosa, molto ambiziosa, la creazione di un atlante internazionale al quale lui lavorerà. Questo atlante sarà pubblicato postumo nel 1927. Insomma, probabilmente molti di voi non avevano mai sentito parlare di Luigi Vittorio Bertarelli, però quasi tutti abbiamo avuto tra le mani prima o poi una guida del Touring, il progetto più articolato, più famoso che dobbiamo a lui, al nostro protagonista. Lui diceva che realizzare questi volumi aveva richiesto un lavoro paragonabile alla costruzione di un edificio, cioè assemblare materiali diversissimi tra di loro. Bisogna creare prima un disegno, un progetto nel dettaglio, poi riunire tutti i materiali necessari in linee prestabilite per rendere il tutto armonico. Bene, lo stesso viene fatto per le guide. La concezione iniziale è seguita per ogni regione da un'opera pazzesca paziente di ripartizione dei lavori, la raccolta, la selezione, diciamo, dei materiali, il controllo di notizie infinite, poi arrivare alla sintesi che i soci ricevono, una sintesi liscia, scorrevole, come se fosse venuta di getto, invece è frutto di un lavoro d'equipe, ma un lavoro molto duro, di distillazione faticosa, delicata. Tra i vari materiali per la creazione di una guida, uno che non è il più comodo da mettere insieme, perché non viene da un luogo solo, ma si trova sparso in tutto il paese e bisogna andare a cercarlo, è la descrizione stradale. La descrizione panoramica, il luogo di interesse nullo o mediocre, o grande o eccezionale, che un itinerario offre in confronto ad un altro. Consigliare o sconsigliare una strada al turista e dirne il perché è materia sottile e di grande responsabilità. E non c'è, l'esperienza lo prova, che un mezzo solo per raggiungere il difficile scopo. Percorrere le strade, tutte quante le strade, con l'occhio intento, la mente tesa al confronto, per dedurre e fissarne prontamente un netto e conclusivo giudizio. Luigi Bertarelli ha fatto questo, ha dato un colpo d'ala grandioso, ha girato l'Italia in lungo e largo, ha attraversato le strade, le ha disegnate, ha misurato le salite, le discese, ha sostato nelle locande, ha assaggiato le specialità regionali, insomma se l'è goduta la vita, anche se in maniera faticosa, ha provato il caldo siciliano o le piogge fredde delle montagne del Trentino, ci ha regalato racconti divertenti, appassionati, tragici a volte, racconti di Italia che stava nascendo. Lui col suo amore ha contribuito a compattarla, col suo spirito di avventura è riuscito a rendere questo paese più conosciuto e sicuramente più amato. Beh, e sono persone che hanno saputo dare il loro colpo d'ala, certo per conoscere, per capire la vita, ma anche per rendere più semplice la vita degli altri, è quello che ha fatto il nostro protagonista. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che noi si punti il nostro microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social, insomma se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni. Generation.